9. Ascolta e controlla. 1. I turisti spagnoli vogliono ritornare in aereo a Madrid, in Spagna. 2. Devo prestare dei soldi a Davide perché vuole comprare una maglietta di cotone. 3. Vuoi venire con noi? Noi andiamo a vedere un film di avventura. 4. Facciamo colazione alle 8 e partiamo subito per il centro. 5. Devono cercare il vocabolario in libreria e pagare alla cassa. 6. Non devi lasciare la borsa di Nadia sulla sedia, ma sul tavolo. 7. Vado a scuola a piedi e non in autobus. 8. Potete andare al supermercato a comprare un chilo di pesche? 9. Usciamo di casa alle 11 per fare una passeggiata. 10. Devo ricordare di mettere un vaso di fiori sul tavolo da pranzo.